tristezza, un posto tranquillo che pace mi dà. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Lo so che ho un modo proprio stupido di fare. Quando dico certe cose che possono far male, ma ognuno ha un modo suo personale di amare e ragionare dentro sé. Se tu mi accusi mi fai sentire tale che aggravi in più amore la mia colpa. Io faccio e disfottuto all'improvviso e ho il difetto di amare troppo te. Parole son parole e la gente non capisce quando parla senza motivo né una ragione. Più importante è sapere che la nostra vita in comune dipende solo e unicamente da noi due. Vorrei trovare istinti per spiegare e so che mi potresti tu accettare. Lo so che tengo un modo proprio stupido di fare, ma è così che io ti so amare. Parole son parole, la gente non capisce ciò che dice quando parla, senza motivo né una ragione. Più importante è sapere che la nostra vita in comune dipende solo e unicamente da noi due. Vorrei trovare istinti per spiegare e so che mi potresti tu accettare. Lo so che tengo un modo proprio di fare, ma è così che io ti so amare. Giunsi sul portone, il mio corpo fu così felice. ma sul pavimento le valigie. Io tornavo. Tutto era uguale come allora, solo le pareti modificate e la nostra camera cambiata, molto bella. Io mi pento, eri tu l'artista, il mio cervello, l'amore mio. Quando aprì la porta lentamente lasciai la luce entrare per prima, tutto il mio passato ricordai e io entrai. Il ritratto mio sulla parete giallito per il lungo tempo, come a chiedere dove fossi stato, e poi parlai. Pazzo io, quando mi morì di dentro, davo tutto. Dopo tanto tempo che qualcuno fosse in mia attesa, ma sì, indecisi io sentì e mi fermai. Di due braccia aperte, abbracciarmi come anticamente, tante cose volevo dirle io, ma pianse poi. Il mio corpo fu così felice.

Io guida solo, dimmi tu, io cosa faccio? Riprendi me, riprendo te. Ed ora quante cose del passato ritornano in mente nel presente, quei momenti che per molto tempo rimarranno ancora, tua allegria, tua tristezza eri in una volta sola, tu sei stato il mio sorriso all'arrivo e la mia lacrima. L'addio. Ora io mi butto tutto intero nel tuo abbraccio, riprendi me, riprendo te. Io qui da solo, dimmi tu, io cosa faccio? Sfido più, astuta come sei, tu bari sempre, sì, in questo gioco ormai, la tua scienza è tale che io mi sento male. Se vuoi, provocami se vuoi, non mi importa niente. Sì, vattene se vuoi, forte io sarò e non te prego niente. Vita resterai, da sola te ne andrai e non rinnegarmi niente. Adesso ti avvicini, nervosa mi tormenti con strani sentimenti e poi io ti amerei, no, cosa dico no, sono un po' distratto, forse troppo matto. Io sto cercando io un mezzo per capirti e s'incognita ferirti poi. Thank you. amerei. Ma sì, ti ucciderei.